Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra senza fiato, nel cielo, dallo squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mani, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorso. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no? Io ci ritorno solo a guardare il mare. Sì. Solo a guardare il mare ci ritorno. E te lo voglio dire. Già pensavo di avere chiuso i conti venerdì con la giornata dedicata all'antiviolenza verso le donne, però oggi ci voglio ritornare. Ci voglio tornare perché nel fine settimana ho letto una notizia che mi dà modo di tornare perché è interessante per vari aspetti. Avete sentito nella premessa di questa trasmissione la parte parlata di una canzone famosissima del 72, Lella, di Edoardo De Angelis e Gicca Paglia, diciamo il cavallo di battaglia di Edoardo De Angelis. È una bella storia, molto romanesca, però ha un suo respiro nazionale, la conoscono un po' tutti, perché l'abbiamo sentita tutti. È la storia di un quattone che racconta, dopo 4 anni, non si sa bene chi è, un suo amico, un suo confidente, che lui ha ammazzato Lella. Lella era la bella moglie del cravattaro Proietti, cravattaro lo strozzino, quindi personaggio ricco, infame, che aveva una bella moglie e se la trombava il protagonista. Una grande storia di passione, d'amore, se la portava in riva al mare, avevano notti, giornate folli, rubate e strappate al quotidiano, nessuno l'avrebbe mai creduto. Lella un giorno scompare, tutti pensano che sarà trovata un cravattaro più ricco del signor Proietti. In realtà no, l'ha ammazzata il protagonista. L'ha ammazzata perché il giorno è l'ultimo dell'anno, Lella, come tante donne giustamente, ma tanti esseri umani fanno, ha detto basta, mi sono stufata, ritirami sulla lampo del vestito. L'uomo non ha resistito all'onta di sentirsi non più desiderato da quello che pensava l'oggetto indiscusso ed eterno della sua passione e l'ammazza. La sotterra però continua ad andare in quel posto a vedere il mare, a ricordare la passione. Questa bella canzone, anche se rammenta e ricorda un gesto scellerato, è improvvisamente diventata attualissima per due motivi. Primo, perché avete sentito la versione che ho fatto sentire dell'orchestraccia, è diventata un video dove alcune attrici famose, personaggi dello spettacolo, l'Incontrada, la Sabrina Impacciatore, Ambrangiolini, Donatella Finocchiaro e altre, sceneggiano in un videoclip la storia di Lella e ne prendono lo spunto per richiamare l'attenzione sulla violenza verso le donne. Secondo, perché il 4 dicembre, proprio sotto il titolo E te voglio di, proprio ispirata da questa canzone, sarà all'Auditorium di Roma un evento, una serata dedicata alla campagna internazionale del Fiocco Bianco sulla violenza delle donne. Ci saranno molti artisti, ma soprattutto nascerà anche a Roma un CAM, un centro ascolto per uomini maltrattanti. L'abbiamo parlato tante volte, ricordate, spesso l'anno scorso ci siamo intrattenuti con persone che hanno cominciato a osservare il tema della violenza sulle donne dal punto di vista dell'osservazione dell'autore attivo, l'uomo che ammazza la donna. Quindi alcuni uomini con una speranza di pentimento si rivolgono a persone specializzate e dicono guarda io meno le donne, aiutatemi. È un tema molto, molto in espansione, molto sott'occhio, ma mi interessa dal punto di vista proprio del motivo ispiratore. Andrea Bernetti, buongiorno. Buongiorno. Andrea Bernetti è diciamo, l'ispiratore di questa giornata che ci sarà il 4 dicembre, sbaglio, o perlomeno la persona che ne tiene le fila. Sì, diciamo che io sarò il coordinatore del CAM che aprirà a Roma, appunto il centro ascolto maltrattanti, e insieme a molti amici, molte associazioni abbiamo pensato di creare questo evento che servirà appunto un po' per finanziarlo, un po' per far conoscere questo progetto. Cioè voi vi diciamo rivolgete agli uomini che sanno che hanno questo problema, hanno la mano svelta e veloce, antepongono le mani piuttosto che al loro razionale pensiero, cercando di far qualcosa per loro. Però la cosa che mi interessa è perché avete chiamato questa serata E te voglio di, perché vi siete riferiti alla canzone che abbiamo citato di Edoardo De Angelis. Il titolo della serata è Te lo voglio di, che sono stato io, cioè che è un verso della canzone della, e la scelta è stata per due motivi. Uno, perché per la prima volta, diciamo, se ci fate caso nella comunicazione sulla violenza, si usano termini noi no, non so se avete visto i cartelli in giro, noi no, cioè i bastardi eccetera, cioè si parla di un altro, c'è sempre un altro, invece qui sono stato io, cioè il soggetto è in prima persona. I soggetti sono quelli che veramente realmente fanno questo, e vi siete, esatto, vi riferite, diciamo, al supporto poetico emotivo forse più conosciuto, dove un uomo ammette, anche se lo ammette non certo perché è pentito, c'è quasi un senso comunque elaborazione, l'ammazzata, però continua ad andare a vedere il mare come se fosse un gesto trascurabile, che lei sia invece lì sottoterra. Lui lo dice, però in fondo c'è un senso legato comunque alla licenza che ha ogni espressione poetica, quasi di giustificazione. L'amavo talmente tanto che l'ho ammazzata. Questo è proprio quello che bisognerebbe in qualche maniera rettificare nella cultura generale, dando modo alle espressioni artistiche comunque di vivere, sopravvivere, di galleggiare, di riempire il nostro immaginario. Voi come ne pensate? Cosa ne pensate? Perché? Perché a un certo punto il protagonista più importante legato a questa canzone, che è Edoardo De Angelis, la persona che l'ha sempre cantata, fa parte del suo repertorio, l'ha pensata, l'ha scritta, ha preso un po' le distanze, ha detto: ma io non mi riconosco sul fatto che la mia canzone sia considerata l'inno degli infami che menano le donne, quindi non la metterò più nel mio repertorio. Pensate che sia giusto questo? Ve la faccio ascoltare. E te lo voglio di che sono stato io. So 4 anni che me tengo sto segreto. Te lo voglio di, ma non lo fa sapere. Non lo dire a nessuno, dietelo per te. Certo, è proprio l'antitesi di quello che è il messaggio per dare il foglio bianco. Non lo dire a nessuno, tiettelo per te, quando in realtà i picchiatori andranno il 4 dicembre sul palco a dire: sì, sono stato io, te lo voglio dire. E questo è il senso, perché se non lo ammettono non cominceranno mai, diciamo, il cammino di disintossicazione da la mano violenta verso le donne. Edoardo De Angelis, buongiorno. Buongiorno. Edoardo De Angelis, l'autore di Lella, composta insieme a Stelvio G. Capalli, legato indissolubilmente a questa canzone. Lei si è un po' risentito del fatto che sia diventato l'inno di quelli che menano le donne? Ma io, intanto grazie per avermi interpellato. Io in realtà non mi sono risentito, ho solo espresso un mio giudizio. Siccome naturalmente conosco bene l'anima della canzone, che ovviamente racconta di una storia popolare, non è riferita ad alcun fatto di cronaca. Ma è una diceria che, diciamo, sì, lei ha raccolto come cantastorie di storie popolari, la storia di questa Lella, figlia dello strozzino, moglie dello strozzino, galleggiava nell'aria in quegli anni. Ma, solo per sapere un pochino la filologia, ecco. Ma la filologia, secondo me, non è neanche così precisa, ma un po' vagamente si può far ricondurre forse a degli ambienti letterari che frequentavo con le mie letture, Pasolini, Gadda, insomma, cose legate ad ambienti romani e a storie un po' truci, un po' tragiche. Poi, insomma, in tutte le storie, in tutte le favole popolari c'è sempre qualche cosa di drammatico, di tragico, un po' di sangue. Quindi la storia la giustifico, la canzone, come ho scritto in una lettera aperta che ho inviato alla stampa. Io non prendo le distanze da Lella, dalla canzone, ci mancherebbe altro. Prendo le distanze da tutte le dinamiche sociali che si sono create e, come dire, condensate in questo periodo, per cui in realtà quasi ogni giorno c'è un fatto di cronaca terrificante che racconta questo. Ecco, diciamo, l'esprimo il mio punto di vista. Io penso che il poeta, come letterato, come romanziere, come colui che usa la fantasia come strumento di fascinazione del mondo, ha diritto di toccare qualsiasi tema e di usare la sua vena poetica su qualsiasi corda. È chiaro che questa canzone ha un suo grande valore poetico, ma è chiaro che rientra in una mentalità un po' passata. Forse solo questa è l'unica distinzione da fare, in cui l'aspetto dell'omicidio di una donna per troppa passione entrava in un alone quasi giustificatorio. Gli altri uomini hanno sempre pensato: sì, l'ha ammazzata, ma vedi, quella stronza non gli ci voleva stare più, e lui l'amava tanto. È quello che un po' oggi ancora che leggiamo nei giornali: uccide per passione e poi si uccide, sempre nell'ordine sbagliato, perché se uno si uccidesse prima di uccidere per passione ci sarebbe solo una vittima e soffriremmo tutti un po' meno. Ecco, lei non pensa che però oggi in effetti un punto vada fatto, non perché io sono il nemico giurato del politicamente corretto, ma solo dire che magari, ecco, non è proprio una cosa bellissima pensare che la passione giustifichi un omicidio. Ma questo è fuori di dubbio, tanto più che i pochi che conoscono la mia letteratura musicale, le mie canzoni, sanno che ho sempre osservato con grande curiosità, interesse, rispetto, affetto, amore l'universo femminile che ho trattato più volte. Lella è scritta in prima persona, ma come dire, non è condivisa in prima persona, certamente. Allora, ci fermiamo solo un istante, De Angelis, chiediamo le informazioni del traffico, riprendiamo fra un istante, vorrei che anche il pubblico dicesse la sua, come la pensa. È il caso comunque di fare il processo a una canzone, fra virgolette, o considerare comunque quello che è stato un motivo caro, romantico, che ha accompagnato tante persone, tante notti, tante passioni probabilmente, o si può lasciare comunque il diritto di esprimersi a qualunque poeta, a qualunque cantautore, e non esiste un nesso diretto fra quella che è la realtà cruda di tutti i giorni e quella che è una libera espressione poetica. Insomma, una canzone può istigare a compiere violenza sulle donne, una canzone può giustificarlo, oppure assolutamente stiamo parlando semplicemente per redimere quella che è una questione che era nata sull'agenzia di stampa. A tra poco. Gli piaceva andar mare quando è inverno, fa l'amore col freddo che faceva, però le carze non se le toglieva, alla fiumara dove sta il baretto, tra le reti e le barche abbandonate, col cielo grigio a facce su da tetto, la mattina che era l'ultimo dell'anno, mi dice con la faccia indifferente: mi sono stufata, non ne famo niente, e tireme sulla lampo del vestito, e te lo voglio di che sono stato io. Fulvio, buongiorno. Ascoltatore Fulvio, 800240024. Sì. 0024. Stiamo ragionando, perché è interessante, sui modelli emotivi che ci danno i frutti dell'immaginario degli artisti e i comportamenti concreti. Lei come la pensa? Ma io mi ascoltavo, innanzitutto, vabbè, è sempre un piacere ascoltare la sua trasmissione, quando ci riesco mi fa molto piacere. Mentre ascoltavo la trasmissione, mi è venuto in mente un parallelo con un'altra canzone che, diciamo, del 68-69, quegli anni là, che era Auschwitz. Sì, sì. E anche quella, voglio dire, cantava di una storia truce, perché, insomma, voglio dire, più dei campi di sterminio credo che sia difficile. Ma non era dal punto di vista dell'Aguzzino, però. Non era dal punto di vista dell'Aguzzino. Questa c'ha il punto di vista di quello che, insomma, in fin dei conti, quello che commette un reato anche infamante come uccidere una donna o usare violenza sulle persone più deboli è comunque una persona che ha una sua psiche deviata da rimediare, da curare, eccetera, ma ce l'ha. Allora, anche mettere in evidenza questo, come dire, questo sorriso gelido di questo signore che racconta questa storia, come se avesse detto: sai, io sono andato a prendere un caffè, era proprio buono, no? E con la stessa tranquillità e con la stessa insensibilità racconta questo fatto a un amico, però però un qualche cosa che sì, lei la deve, non... deve vedere collocata, adesso poi sentiremo Edoardo De Angelis, nell'humus sociale in cui l'ha collocata il suo autore. Lei sta, stiamo parlando di una Roma periferica, coatta, pasoliniana, gaddiana, ci mettiamo tutto, in senso in cui era, diciamo, abbastanza normale in questa sorta di codici non scritti che uno potesse far fuori l'amante perché non voleva più stargli. Non credo che avesse goduto di una particolare giudizio sociale in quella società errato. Sentiamo Edoardo De Angelis. Edoardo De Angelis, vediamo di capire, di collocarla nell'ambiente in cui lei l'ha pensata e l'ha collocata. L'ultima cosa che vorrei fare questa mattina è proporre dei processi alle canzoni e alle poesie, che entreremo in una logica talebana che io aborrisco assolutamente. Però mi piace pensare, mi piace questo protagonista di Lella che si confida, che oggi fa rabbrividire a tutti, che comunque ha una sua ragione di esistere in un contesto che lei avrà visto e immaginato, penso. Ma guardi, devo fare una premessa, le canzoni, almeno le mie, non nascono a tavolino, raccolgono certo quella che viene chiamata ispirazione, che è la sintesi di molte cose viste, raccolte con il pensiero, spesso anche non consapevolmente, e poi nascono appunto queste storie. Ripeto, la storia di Lella non è nata a tavolino, non volevo delineare, però è indicativa di un'epoca, di una situazione periferica. Sicuramente lei ha citato Pasolini, in Ragazzi di vita di cose altrettanto truce ce ne stanno, infatti, a bizzeffe. Infatti come lei ha giustamente ricordato, l'ambiente è certamente quello, la Fiumara, la periferia di Roma, quello che c'è intorno. Oggi uno, se andasse a raccattare ragazzini, sarebbe nei titoli dei giornali. Pasolini lo faceva e lo scriveva e faceva parte, diciamo, del contesto, non dico giustificatorio, ma in quell'epoca era così. La storia va rivista sempre con gli occhi, immaginata con gli occhi di chi la viveva in quel tempo. Per di più, se lei vuole condurre insieme a me questa riflessione, anche la storia di Pasolini come persona fisica, come dire, si è conclusa in maniera tragica, sì, appunto. Enigmatica per qualcuno, ma comunque tragica. È stato trovato morto mentre andava a battere, a cercare ragazzini. Così sì, era la storia. Questo conferma. E conferma che è un grandissimo poeta, è un grandissimo pensatore del nostro tempo, ma questo è. Sono d'accordo con lei, un assoluto profeta. E infatti è stato cacciato anche dal Partito Comunista al tempo perché aveva comportamenti non regolari. Paolo, sentiamo Paolo. Paolo. Buongiorno, buongiorno. Velocemente. Sì, io volevo dire semplicemente che canzoni, film, non credo che giustifichino mai un qualcosa. È una canzone bellissima, Lella, triste, uno capisce che è un errore. E non credo che uno che ascolta Lella gli viene voglia di picchiare una donna come noi. Io ho 48 anni, da ragazzini vedevamo i film di pistole, giocavano con le pistole, non si diventa assassini perché si guardano. No, ma questo è chiaro, il tema era un po' diverso. La canzone è stata presa come simbolo di un'azione che oggi viene socialmente considerata errata. L'autore dice: ma quando l'ho scritta io, l'ho pensata io, l'ho immaginata io. È un altro contesto. Si è visto un po' espropriato di un suo oggetto poetico, collocato in una situazione che lui sì capisce, comprende, però non può esserne felice. Andrea Bernetti, vediamo di concludere proprio con lei, se riesce a darci un'idea, comunque, visto che della canzone abbiamo parlato tanto, di come funziona e come si sviluppa, ma proprio in una battuta, il training verso questi uomini probabili o potenziali assassini, tante Lelle che vengono da voi, e cosa gli fate? Allora, prima di tutto, non solo gli assassini, anzi, cioè da questo punto di vista... Ho detto potenziali, perché uno che mena può arrivare per tutto, certo. Esatto, nel senso che appunto... Cioè, non lo fa per dar carezze. Quasi 3 donne su 10 in Italia hanno subito una qualche forma di violenza, quindi i numeri sono molto più alti e le forme di violenza sono diverse. E quindi il primo punto è questo, cioè pensare che è una cosa che ci riguarda. E che l'intervento sulla violenza è a partire dagli uomini, ci riguarda tutti, per quello il parlarne in prima persona l'abbiamo trovato molto interessante. Come funziona? Ci sono il CAM funziona, è già attivo dal 2009 a Firenze. Allora facciamo così, guardi, perché sennò riprendiamo un punto e parliamo proprio di quella che è la terapia. Intanto ci si dà appuntamento il 4 dicembre con gli uomini che diranno in prima persona: sono stato io. volete lo dico? Sì, sono stato io, anche io sono un picchiatore di donne, così, mi prendo la mia parte, anche se non è vero naturalmente.